Buongiorno a tutti e tutte, siamo qui oggi a Radio Vostok per la terza puntata del podcast che celebra il ventennale di Sodalis, ente del terzo settore, nonché centro servizi per il volontariato di Salerno. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Paolo Romano, associazione Ipotenusa, tra i fondatori di Sodalis Salerno. Ciao Paolo, inizio subito con la prima domanda. Il 2024 è stato appunto l'anno di fondazione di Sodalis. Lei cosa ricorda di quell'anno in particolare? Ma che noi come Salerno eravamo un po' in ritardo rispetto agli altri, alla fondazione degli altri centri di servizio, e quindi c'era grande entusiasmo e da subito pensammo di fare un centro servizi che non fosse promosso solo da alcuni, ma che vedesse la partecipazione di quanti più gruppi è possibile. Infatti ricordo che allora Sodalis fu uno dei centri che aveva all'inizio più soci rispetto agli altri centri di servizio che si erano formati o si stavano formando in Italia. Quindi grande entusiasmo, grande fiducia che questo strumento potesse essere utile allo sviluppo del volontariato. Certo, sì, sicuramente un momento, anche il momento dell'inizio incide molto sull'entusiasmo appunto di partenza. Ma secondo lei qual è stato invece il momento più positivo in assoluto che ha attraversato Sodalis in questi anni? Ma secondo me nel momento iniziale, che è sempre il momento generativo, cioè quando non avevamo una traccia ben definita su cosa fare, per cui vi era un forte dibattito interno e la voglia un po' di esplorare nuovi campi, nuove strategie. Funziona sempre così. All'inizio, quando una realtà parte, vi è molto entusiasmo e vi è anche, quando parte bene, il tentativo di cercare il nuovo. Dopodiché è facile che ci si appiattisce su routine o su cose prestabilite e prestandardizzate. Invece in quel momento non avevamo idea di come sviluppare questa realtà, e quindi vi era anche molto voglia di progettare e di sperimentare il nuovo. E invece al contrario c'è stato qualche momento di difficoltà che ricorda particolarmente, e ovviamente se sì, come è stato superato, che approccio è stato preso per superare questo momento? Ma guarda, la risposta è molto personale, nel senso che ad un certo punto del nostro cammino, penso dopo 2 o 3 anni, io con la mia organizzazione ero dentro come fondatore e abbiamo avuto qualche difficoltà. Uno dei problemi è sempre lo stesso, cioè il centro di servizio è controllore di se stesso, nel senso che le stesse realtà che ci sono dentro governano, ma sono anche fruitrici dei servizi che il centro servizio pone. Questa cosa a me dava molto, molto problema, e per cui ad un certo punto abbiamo deciso che di tornare ad essere fruitori, quindi non essere più dentro la parte politica di gestione come organizzazione. Quindi siamo usciti, parlo della mia organizzazione Ipotenusa, da soci di Sodalis, ma poi abbiamo nel corso degli anni utilizzato tutti i servizi che l'organizzazione dava. Quindi è stato un momento sicuramente difficile, in cui poi abbiamo scelto di non essere più contemporaneamente nella cabina di regia e come fruitori. E quindi purtroppo abbiamo dato la responsabilità, abbiamo buttato la croce su altri, che però, certo, insomma, l'hanno accettata ed hanno, insomma, in maniera ammirabile portato avanti il centro servizi in tutti questi anni. Certo. Sicuramente questo è stato un momento critico. È stata trovata comunque una quadra, a prescindere dal... È stata trovata una quadra, nel senso che noi abbiamo fatto un passo indietro e quindi le cose che ti ho raccontato, manca a farla apposta, riguardano i primi anni in cui anche io e la mia organizzazione eravamo presenti. Poi comunque ho seguito il centro servizi e ho visto, insomma, tutte le cose che ha fatto, non ultima anche la realizzazione della Casa del Volontariato, che mi sembra una bella intuizione, cioè avere un punto al centro di Salerno disponibile per tutti i gruppi, e per iniziative, convegni, mostre, insomma, un buono sviluppo di quello che dovrebbe essere, diciamo, il senso e l'utilità di un centro di servizi in una città. Certo, anche una buona pratica di apertura, immagino, verso anche Sì, l'esterno, volendo. esattamente, esattamente. Bene, quindi abbiamo parlato del passato, quindi spostiamoci nel futuro. Quali pensa Sì. che possano essere le prospettive per i centri servizi per il volontariato e per quello di Salerno che è più vicino a noi? Ti sono sincero, non ho condiviso tutto ciò che è avvenuto a livello nazionale. Gli ascoltatori sanno che c'è stata una riforma del terzo settore. In questa grande riforma, in cui diciamo, il volontariato, secondo me, ha avuto la peggio, nel senso che è diventato molto ancillare rispetto al mondo della cooperazione sociale e del terzo settore in generale, anche i centri di servizio hanno avuto si sono dovuti adeguare, si adegueranno sempre di più a questa normativa, cioè non saranno più centri di servizio per il volontariato o con il volontariato, per meglio dire, ma saranno centri di servizio aperti a tutto il mondo del terzo settore. Secondo me questo sarà un impoverimento, perché sono risorse che erano destinate al volontariato e che invece vengono destinate a un macro mondo che ha ben altre risorse ed opportunità a cui attingere. Per cui ho timore che in un futuro i centri di servizio non potranno avere più. Non potranno più avere solo come loro diciamo, punto di riferimento i gruppi di volontariato, ma una realtà molto più ampia e variegata. E questo ho paura che possa diminuire l'efficacia in futuro dei centri di servizio. Quindi il mio augurio è che Sodalis invece mantenga fortissima l'attenzione sul volontariato, inteso come attività organizzata e quindi non singola del singolo individuo e basata comunque sul dono, cioè sul protagonismo attivo dei cittadini e quindi non su realtà di pseudo cooperazione sociale che in qualche modo porterebbero lontano quello che secondo me l'obiettivo fondamentale di un centro servizio, cioè di promuovere, ripeto, il protagonismo gratuito e spontaneo dei cittadini in maniera organizzata. Serve servire alla collettività, insomma, potremmo dire Sì, così. sì, Certo, sì, sì, sì, sì. Cioè ho capito. servire alla collettività, ma con uno stile preciso. Quindi noi non siamo la ruota di scorta dello Stato, cioè la realtà che lo Stato utilizza quando non ha i soldi per promuovere servizi, noi Esattamente. siamo questa forma di parastato a buon mercato che sta diventando e che è diventato il terzo settore. Il volontariato dovrebbe essere qualcosa di autonomo, cioè i cittadini si riuniscono insieme, guardano la realtà, osservano anche tutte le disuguaglianze, la distruzione dell'ambiente e in maniera autonoma propongono diciamo delle soluzioni. E il centro servizi dovrebbe essere a fianco in primis a queste realtà, poi anche alle cooperative, alle organizzazioni, alle associazioni di promozione sociale, le altre realtà. Ma secondo me quello che non dobbiamo spegnere è questa, diciamo, spontanea, gratuita azione dei cittadini che potrebbe essere incoraggiata da una realtà come quella dei centri di servizio. E quindi è quello che io mi auguro in un futuro che possa fare anche Sodalis. E credo che sia un'ottima prospettiva, almeno a mio parere. Certo, Allora, la certo, ringrazio per certo, certo. essere stato qui con noi a Radio Vostok e le Grazie auguro a una voi, buona grazie giornata. Giorgio. Grazie.